storie d'amore che durano per sempre, altre giusto un paio d'ore, ma poi non ne resta niente. Scorre violento, rilento, il ruin di quel momento. Ripenso a quel frammento, perso nel tempio del mio tempo. Tu mi chiedi come ho potuto rovinare tutto in un minuto. Io guardo quel che ho perso e mi dico come ho potuto. Ed ora come allora, ancora fuori da una chiesa, con l'auto accesa nell'attesa di un finale a sorpresa. Lei sorride, sorride e non parla. Sorride e mi guarda, sarai così una sposa, ma da come mi guardi, sembra che ho qualcosa che lui non può darti. Lei sorride, sorride e non parla. Lei sorride, sorride e mi guarda, per dirti tante cose non saprai. Ho scritto parole, parole che non leggerai. Lei sorride, sorride e non parla. Lei sorride, sorride e mi guarda. Chiamarti solo per sentirti raccontare quel che hai fatto oggi e quel che dovrei fare. Venire dai tuoi per il pranzo di Natale, accompagnarti all'Iper e finire a litigare. Vorrei andare al cinema ogni fine settimana e il film non mi piace, ma mi piace chi lo ama. Vorrei che fosse come il lieto fine di un film, ma sorridendo te ne andrai pronunciando quel sì. Lei sorride, sorride e non parla. Sorride e mi guarda, sarai così una sposa, ma da come mi guardi, sembra che ho qualcosa che lui non può darti. Lei sorride, sorride e non parla. Lei sorride, sorride e mi guarda, vuoi dirti tante cose non saprai. Ho scritto parole, parole che non leggerai. Lei sorride, sorride e non parla. Lei sorride, sorride e mi guarda. C'è qualcosa di magico in quello che fai. Ho provato a scoprirlo ma non so cos'è. Non ti amo per quello che sei, ma per come sono io quando sto con te. Lei sorride, sorride e non parla. Lei sorride, sorride e mi guarda. Sarai così una sposa, ma da come mi guardi, sembra che ho qualcosa che lui non può darti. Lei sorride, sorride e non parla. Tante cose non saprai. Ho scritto parole, parole che non...